una cosa velocissima perché tra poco arriva mio marito. Oh, per carità. E quindi neanche dobbiamo fargli scoprire che sta telefonando. Chiamateci anche se avete un marito legno come me e quindi dovete restare a fare tappezzeria. No, io sono ammogliato. Lo dico con una determinazione perché sapendo che magari mia moglie mi ascolta. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Speriamo di non aver spaventato i nostri ascoltatori con questo conto alla rovescia. Ebbene sì, siamo arrivati anche quest'anno ad un appuntamento assolutamente democratico che tutti aspettano anche con ansia. Il fisco chiama l'appello 17 milioni di contribuenti fra dipendenti e pensionati che cominciano a vedersela fra fatture, documenti ricevute e scontrini. Insomma, possiamo dichiarare ufficialmente aperta la stagione della dichiarazione dei redditi e dobbiamo un po' raccontare al fisco tutti i fatti nostri, spiegare quello che abbiamo guadagnato l'anno scorso, le spese che abbiamo sostenuto, e alcune di queste ci possono anche far risparmiare sulle tasse che dobbiamo versare quest'anno, tutte le deduzioni e le detrazioni a cui abbiamo diritto. Per fare tutto questo per bene bisogna tenere a mente le scadenze e prendere nota di tutto. Insomma, bisogna essere un po' precisini ed ordinati. Come siamo noi in fondo, certo, no? Certo. D'altra parte, Deborah, il modo in cui prepariamo e affrontiamo la dichiarazione dei redditi racconta, secondo me, molto di noi. Da questo punto di vista si potrebbe dire: dimmi come la fai e ti dirò chi sei, perché pensaci un po' anche tu, c'è chi ci si penso. Porta avanti archiviando meticolosamente tutto, conosciamo qualcuno? Non sono però io, non dire così. C'è chi invece arriva all'ultimo momento, la conosco bene, in questi giorni sta cercando in ogni angolo della casa scontrini, fatture, conti, c'è chi fa da sé e chi delega invece tutto a un commercialista, c'è chi è sereno e rassegnato, chi invece è già preoccupato e terrorizzato dal timore di sbagliare. Però se ci pensiamo, ogni appuntamento, ogni scadenza, ogni esame, ogni controllo è una sorta di banco di prove in cui tutti noi ci misuriamo e facciamo i conti con i nostri limiti, le nostre paure, il nostro modo di essere. Dobbiamo scendere a patti anche con le nostre rigidità, le nostre difficoltà, le nostre abitudini. E allora oggi parliamo, lo avrete capito tutti, l'abbiamo detto abbastanza esplicitamente, della nostra dichiarazione dei redditi, per rassicurare i nostri ascoltatori alle prese anche con questi limiti che abbiamo indicato, difficoltà e rigidità. Oggi abbiamo a disposizione diversi esperti naturalmente per confrontarci su questi argomenti, per cui mano alla cornetta, 800 24 00 24 il numero verde che potete comporre per farci le vostre domande, modello 730 o modello unico. Oggi ci rivolgiamo ai tanti che in questo periodo stanno fissando l'appuntamento con il commercialista o con il CAF, il centro di assistenza fiscale, e stanno cercando anche di mettere ordine fra i documenti. Ma il commercialista ce l'abbiamo anche noi questa mattina, per cui diamo il benvenuto al dottor Stefano Maffi, una carica lunghissima, per cui glielo anticipo già, la dico una volta, dopodiché non la diciamo Basta. Più, componente della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Tempi duri, per i commercialisti, però la vedo in forma. Poi ci darai il suo segreto. Sì, per sopravvivere a questo periodo così sorridente. È un appassionato di numeri e quindi ha trovato la sua dimensione in questa Pensavo professione. Pensavo che fosse appassionato di noi e fosse così allegro perché è qua in studio con noi. Ma certamente. Assolutamente sì, lo ammetto. E poi? Allora, oggi, tra l'altro, dottore, noi usiamo il modo in cui viviamo e affrontiamo la dichiarazione dei redditi un po' come come pretesto per parlare anche di noi e delle difficoltà che incontriamo con dei lati del nostro carattere che magari non ci piacciono proprio, ma che per mille e una ragione non riusciamo a cambiare, anche se tocchiamo con mano, che ci danneggiano. E ne parliamo oggi con la dottoressa Monica Piccinni, psicologa e psicoterapeuta presso il CEDANS di Milano, che è il Centro per i Disturbi Emotivi ed Ansia. È un po' di emozione, di ansia in questo periodo, soprattutto per quelli che devono compilare la dichiarazione dei redditi. Cioè, buongiorno dottoressa Piccinni. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Che bella Grazie. Voce. L'avevamo conosciuta, cioè io l'avevo conosciuta solo al telefono ed era già molto bella, però Grazie. Stamattina Allora, e intanto pronti con le foto, c'è già Laura Vanossi che ci... Immortala per l'eternità. E poi finiremo naturalmente su Facebook, ma voi che cosa potete fare oltre che guardarci su Facebook? Chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, avete già tutto pronto per la dichiarazione dei redditi? Siete a buon punto o aspetterete come sempre, come ogni anno, l'ultimo giorno possibile? Possibile. Capita per la dichiarazione dei redditi, ma anche per il pagamento delle multe, per l'iscrizione ad un esame, per la prenotazione di un controllo. Io vorrei sapere da voi, perché la dottoressa Piccinni potrebbe darci una mano, le scadenze o i tempi scanditi vi facilitano o vi affaticano? Scriveteci anche al 349-238-6666 e seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter. Tempo, comunque vadano le cose lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo ma intanto è già andato e fino adesso niente l'ho mai fermato e tutto più forte lo hai misurato con i tuoi orologi. Dottor Maffi, prima consideravamo a microfoni spenti che tradizionalmente pensavamo che maggio fosse il mese più caldo di lavoro per i commercialisti, invece sappiamo che adesso siete alle prese con tutta una serie di adempimenti fiscali perché seguite molti contribuenti per tutto l'anno, però noi oggi facciamo un ragionamento sulla stagione della dichiarazione dei redditi che tradizionalmente invece per famiglie e contribuenti si concentra proprio in questo momento, in questo periodo settimane in cui tutti fanno un po' ordine mentale, cercano di raccogliere tutta la documentazione delle spese sostenute lo scorso anno e dei redditi percepiti lo scorso anno. Dopodiché le portano a voi questi documenti. Che scadenze abbiamo quest'anno? Le scadenze che abbiamo quest'anno anzitutto dipendono dal modello che i contribuenti scelgono di compilare, perché è possibile presentare il modello 730 in presenza di determinati redditi e la scadenza per depositare a un CAF o ad un professionista che faccia da CAF i documenti è il 31 di maggio. Il 31 di maggio è un sabato. E siccome i sabati, i giorni festivi consentono slittamento al primo giorno feriale, bisogna considerare che quest'anno il primo giugno è una domenica, il 2 di giugno è la festa della Repubblica, quindi il 3 è la data che noi dobbiamo segnare. Avete tutto un weekend di lavoro che in qualche maniera vi rasserenerà un po', immagino, no? Esatto, poi anche per noi, gli ultimi però. ritardatari. Esatto. Noi dovremmo aver già consegnato tutto, magari loro possono permettersi un pochino, credo. Ecco, sì, bisogna considerare che va preso un appuntamento presso i CAF, i professionisti. Certo. Perché la fila si allunga. Quindi la prima scadenza è questa, bisogna presentarsi con tutti i documenti in ordine, il più possibile in ordine. Oppure chi decide di presentare in alternativa al modello 730, al modello unico, ha dei tempi più ampi, perché i termini di presentazione possono essere per il modello unico cartaceo il 30 di giugno e per quello telematico il 30 di settembre. Non bisogna dimenticarsi tuttavia che ancorché la presentazione scada il 30 di giugno o il 30 di settembre, il pagamento delle eventuali imposte va effettuato entro il 16 di giugno, quindi correre è la regola. Perfetto. Tra l'altro lei ci ha detto appunto che i contribuenti possono scegliere di fare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 o il modello unico. Qual è il vantaggio di una scelta piuttosto che dell'altra? Il vantaggio di presentare il modello 730 in presenza, ricordiamo, solamente di alcune tipologie di redditi, non tutti possono compilare un modello 730, mi sembra i casi più eclatanti, un imprenditore, chi abbia redditi d'impresa non può presentare il 730 ma è obbligato a presentare il modello unico, e chi invece ha dei redditi comuni alle più persone, quindi certo, redditi di lavoro dipendente, assimilato e redditi da fabbricati, può presentare il 730. Il modello 730 consente al grande vantaggio di poter vedersi accreditati eventuali rimborsi direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto-settembre. E poi c'è un secondo importante vantaggio che non tutti sanno, è che se si presenta al modello 730 un CAF, il CAF appone un cosiddetto visto di conformità, mm-hmm. quindi assevera che i documenti che siamo tenuti a presentare al CAF siano esatto concordino con la dichiarazione mm-hmm. dei redditi, quindi come dire un sigillo importante che consente di stare più tranquilli. Tra l'altro stamattina, visto che ci concentreremo anche un po' sul comportamento dei distratti, subito Maria da Bologna scrive che si è smarrita, il CUD IMSS cosa può fare? Credo che andando in un centro IMSS con tutti i codici, i PIN, possa tranquillamente ristamparlo, perché nella banca dati appunto dell'Istituto di Previdenza, dottor Maffi. Esatto, ecco. Ma basta dotarci di una PIN online oramai, certo, con esatto. Quindi Maria, guardi, ecco, sì. Può andare anche a un centro di assistenza fiscale con tutti questi chissà numerini. Chissà quali altre cose ha perso Maria, perché questo è un segnale, dottoressa Piccinni, chi perde il documento perde generalmente anche altre cose, con lei parleremo proprio di ordine e di disordine. Ci sono dei disordinati puri e c'è chi invece è disordinato solo in un ambito e ordinato in un altro. Ad esempio, se noi fotografassimo le nostre scrivanie, Deborah, alla mia soprattutto, ecco, il dottor Maffi, se io andassi da lui mi dice: no, guardi, vedendo la sua scrivania io non voglio fare il suo commercialista, perché so che mi darà sempre solo gatte da pelare. Quante ne vede, poverino? Le direi: guardi la mia scrivania, che invece è ordinata. È ordinata? Per forza, perché il lavoro lo consente. Intervenire? Assolutamente sì. Direi che comunque questo non è l'unico segnale, perché anche nel caso in cui esternamente, no, noi possiamo mostrare una gran confusione, un aspetto di disordine anche molto importante, dentro invece possiamo avere dei criteri diversi da affrontare la vita di tutti i giorni. Quindi non è così scontato che la scrivania disordinata sia anche sinonimo di disordine interno. Quindi svelatevi all'800 24 0024 parlando della dichiarazione dei redditi, e aggiungendo che cosa, dottoressa Piccinni? E aggiungendo come facciamo le cose tutti i giorni, per capire un pochino che profilo abbiamo. Sì, allora intanto stavo curiosando fra i messaggi degli ascoltatori che ci stanno arrivando, perché hanno, come sempre fanno, colto perfettamente lo spirito del nostro programma. Quindi c'è già chi ci sta chiedendo indicazioni precise per fare correttamente la dichiarazione dei redditi di quest'anno, chi invece ci sta svelando il suo profilo di ordinato disordinato. E per esempio appunto Giovanni ci scrive che è il prototipo del disordinato, conservare i documenti lo affatica moltissimo. E invece Roberto chiede un tema sul quale poi saremmo voluti andare nel corso del programma: quali documenti bisogna conservare o presentare, oltre a fatture e relativi bonifici, in ambito di ristrutturazione casa e risparmio energetico. Dottor Maffi, ci dica un po', visto che, come ci siamo anche raccontati prima, lei è nel bel pieno di una ristrutturazione. Io l'ho già fatta, quindi ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Che cosa dobbiamo conservare, oltre a fare i cosiddetti bonifici parlanti? Esatto, i bonifici parlanti sono assolutamente fondamentali, sono due ordini di bonifici, quelli che valgono per le detrazioni del 50%, quindi ristrutturazione edilizia, e quelli che invece valgono per le spese. Ecco, quindi ha fatto bene a ricordare le percentuali, conservate i documenti, perché il fisco restituisce oltre la metà delle spese che abbiamo sostenuto, soprattutto se vogliamo fare il riordino energetico, diciamo, della nostra abitazione, siccome il vantaggio è notevole. Esatto, le detrazioni sono importanti, il fisco richiede di essere precisi negli adempimenti. Bisogna ricordare che c'è un provvedimento del novembre 2011, esattamente il 2 novembre 2011, del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ha disposto quelli che sono i documenti che nel caso delle ristrutturazioni edilizie il contribuente è tenuto a conservare e ad esibire a richiesta degli uffici. E sono sinteticamente le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, per gli immobili non ancora censiti a domanda di accatastamento, poi le ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, diciamo l'IMU, certo. O adesso vedremo poi tra IMU e TASI che cosa richiederanno, e eventualmente la delibera assembleare, questo è molto importante per l'approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici, certo. Perché molto spesso gli interventi di ristrutturazione riguardano i condomini e le parti comuni. Esatto, ma poi ci pensa l'amministratore di condominio a rilasciarci dovrebbe tutta rilasciare la documentazione. Un'apposita certificazione, quindi dovrebbe attestare che tutto sia coerente con la norma. E poi nel caso dei lavori effettuati al detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore, poi eventualmente la comunicazione all'ASL se richiesta dalla normativa sulla sicurezza, e poi ovviamente tutte le fatture, le ricevute fiscali e i bonifici che attestano il pagamento delle spese, perché il principio cardine per le detrazioni fiscali è il principio di cassa, quindi il momento del pagamento, a prescindere dalla data della fattura. Poi racconteremo anche e spiegheremo alcune notizie che abbiamo trovato sui giornali questa mattina, perché invece per il rimborso fiscale per chi compra i mobili nuovi per la casa, cara Nicoletta, cambia ancora le sue regole. Qua non finiamo più di fare trasmissioni su questo tema. Vero, sì. Hanno pensato a Cuore Denari e quindi aggiungono, ci offrono modifiche, sempre gran materiale. Sì. Mario ci chiama da Savona ed Elisabetta da Roma. Mario, buongiorno, 800 24 00 24. Eccola. Buongiorno, eccoci. È una domanda semplicissima: per chi non ha reddito nel 2013, cosa deve fare? L'incapiente, quindi, dottor Maffi, se non ha reddito e magari ha qualche spesa medica da poter chiedere al fisco una restituzione appunto parziale, non può far nulla. Allora bisogna considerare che chi non ha reddito, quindi l'incapiente, non versa imposta e quindi non ha sconti sull'imposta, quindi le detrazioni non possono essere fatte valere. Quello che può fare una persona, se ha dei crediti che si riportano a dichiarazione degli anni precedenti, eventualmente può presentare il modello 730 e chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate. Quella nuova previsione, tra l'altro, è il cosiddetto 730, alcuni lo definiscono allargato, ossia per quelli che non hanno il sostituto d'imposta, allora a quel punto possono recuperare crediti magari degli anni precedenti. Però ecco, sconti dall'imposta se non ho reddito non sono previsti proprio dal testo unico di imposta sui redditi. Elisabetta, buongiorno, ci chiama da Roma. Sì, buongiorno. Lei è pronta, Elisabetta? È stata puntuale? Tutto in regola? Sì, anzi, forse ho anticipato un po'. Insomma, addirittura? Sì, perché è abbastanza di routine il mio 7.30, quindi niente di particolare. L'unica particolarità è che, essendo stata in mobilità fino a luglio 2013, facendo parte del famoso gruppo degli esodati, eccetera, io da luglio 2013 fino a prossimo luglio 2014 non ho percepito nulla dall'INPS, quindi non la mobilità, eccetera, ho solo una casa di proprietà. Ora il problema nasce nel momento in cui io devo andare a identificare in questo momento un sostituto di imposta, perché in pratica a luglio rientrerà l'INPS come mio sostituto di imposta. Stavamo appunto ragionando con la commercialista se appunto inoltrando all'Agenzia dell'Entrata, all'INPS per meglio dire, il numero di protocollo della domanda di pensione che io ho fatto proprio questi giorni per percepirla appunto a luglio, se in questa maniera io avevo la possibilità di essere riconosciuta, insomma che l'INPS si riconosce come mio sostituto d'imposta. Questa era... Elisabetta, non le nego che ci mette un po' in difficoltà su questo caso abbastanza particolare, che peraltro forse rappresenta anche invece la situazione nella quale si trovano molti altri italiani. C'è un sostituto d'imposta provvisorio, secondo lei, dottor Maffi? Adesso possiamo magari così, teoricamente diamo un parere, poi ci studiamo un attimo e magari entro la fine della trasmissione valutiamo. Oppure deve rivolgersi direttamente Elisabetta all'Agenzia delle Entrate, che gestisce appunto questa situazione a cavallo tra una posizione ed un'altra? Secondo lei, diamo un parere intanto, perché forse una risposta definitiva non l'abbiamo. Eventualmente potrebbe la contribuente presentare il modello 730 indicando il sostituto d'imposta a cui si sente di far fare il conguaglio, e nel caso in cui abbia notizie più certe nei prossimi mesi presentare un 730 integrativo modificando unicamente l'indicazione del sostituto d'imposta che andrà ad operare i conguagli. Però magari forse l'ultimo al quale si è rivolta è quello più naturale a cui rivolgersi anche in questo frangente di provvisorietà, che potrebbe essere quindi l'INPS, perché è l'istituto di previdenza che ha erogato l'assegno di mobilità. Ecco, il termine sarebbe comunque 25 ottobre per presentare un modello 730 barrando l'apposita casella 2 sul frontespizio e modificando solamente l'indicazione del sostituto d'imposta. Questa allora, potrebbe essere un'indicazione. Però ci pensiamo un po' più nel dettaglio. Vi rendete conto quanto è complicato, dottoressa Piccini? Eh già. Ecco, anche da un punto di vista di carico psicologico ed emotivo, quanto questa dichiarazione dei redditi ci impegni, perché ci sono le cose da mettere in ordine, le scadenze da rispettare, quindi c'è la puntualità, il timore di sbagliare. Per questo abbiamo oggi pensato di affrontare la dichiarazione dei redditi, come diceva il dottor Maffi, con un approccio olistico, perché dottoressa Piccinni, lei mi conferma che tutto questo è fonte di grande ansia, scrupolo, impegno, insomma è un carico non solo di denari ma anche di cuore. Non per tutti, Nicoletta, devo dire la verità, nel senso che certo è fonte di stress nel momento in cui come dire, dobbiamo confrontarci, no? Anche con un compito esterno che ha sicuramente poi delle conseguenze eventuali, delle sanzioni, quindi nel momento in cui possiamo sbagliare o non facciamo le cose per bene. Ma come dicevo prima, questo dipende sicuramente anche molto dalla personalità di ognuno di noi, perché non tutti affrontano le stesse situazioni con lo stesso stress o vivendo e interpretando lo stress come una cosa negativa. Quindi ci sono persone che arrivano assolutamente preparate a quella situazione, un po' come sentivamo prima la signora che molto lucidamente raccontava, esatto, la sua situazione. Perché? Perché la inseriscono in una routine quotidiana che naturalmente abbassa moltissimo il livello di stress e di angoscia legata alla paura, certo, di sbagliare. Quindi questo dipende moltissimo da come siamo fatti noi. E allora, se volete, intanto che si parla di dichiarazione dei redditi, oltre a fare le vostre domande riguardo alla compilazione, alla modulistica e i tempi, cercare di capire qualche cosa in più anche di voi, noi siamo qua 800 24 0024 e con noi ci sono i mercati. Cuore e denari. Senti Peter, voglio farti una domanda. Una tua ex ragazza ti telefona all'improvviso la vigilia di Natale. Tu che faresti? Ad un tratto hai problemi a trovare una donna? Certo. Lasciala nel passato. Le vecchie fiamme sono come le vecchie dichiarazioni dei redditi. Le metti in fila nell'armadio per 3 anni e poi te ne liberi. Vi siete liberati di una vostra vecchia fiamma, anche se vi aiutava a fare la dichiarazione dei redditi e il cambio degli armadi? Beh, allora, se siete disordinati, vi dico subito che non avete fatto un buon affare. Disordinati come Silvia, che ci scrive un tweet con la fatiscenza e l'accumulo di inverecondo disordine dei bambini dickensiani scolora di fronte al mio. E un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666: sono molto disordinato, vorrei cambiare, ma non ci riesco, però nel lavoro do l'impressione di essere ordinato, ma è un'impressione. Ordinati e disordinati, la dichiarazione dei redditi è un banco di prova, tutti i nodi vengono al pettine, ma dato che io appartengo alla categoria dei disordinati, voglio leggere. Vero, posso dirlo io. Beh, non dipingerti così come. Adesso allora Debora mi salva, perché è un po' ordinata, lo sono in alcune cose, sono una disordinata mista. Però dato che mi porto avanti, Laura sta postando la foto della mia scrivania e la metterà a fianco della tua, dove sembriamo proprio il bianco e il nero, io mi porto avanti e vado a recuperare una ricerca che dice che i disordinati patologici, e quindi se vi state affannando a recuperare le carte siete voi, pensano meglio, in maniera più chiara e lineare, di conseguenza sono più produttivi nel lavoro, nello studio e in qualsiasi altra attività decidano di intraprendere. I disordinati sono più creativi e, cosa più importante, riescono ad agire meglio e con più lucidità nel momento in cui si trovano in situazioni di panico o di pressione esterna. Insomma, dottoressa Piccinni, il cervello messo alle strette di fronte al disordine seleziona le informazioni utili e le usa per trovare la soluzione e farci uscire dall'emergenza. Sì, Nicoletta, senti, vai. Si tratta di un concetto molto importante che è la flessibilità cognitiva. Cioè, tendenzialmente ci sono una serie di studi che dicono che chi ha comunque una modalità, come dire, a tratti discontinua anche di, no, di gestire lo stress in vari modi, sì, abbia anche una modalità più flessibile di far fronte a queste situazioni stressanti, a differenza invece del rigido, del puntuale, del preciso, che ha una strategia, uno schema cognitivo molto fisso per gestire naturalmente le situazioni. Quindi ogni situazione che esce fuori dallo schema lo mette mette in stress. Allora, oggi abbiamo pensato di chiedervi qual è la cosa che fate più fatica a tenere in ordine e soprattutto raccontateci quella volta in cui il disordine vi ha salvato. Archiviate scrupolosamente tutto nel vostro disordine? Siete quelli che dicono io nel mio disordine trovo il mio ordine? 800 24 00 24. Dottoressa Piccini, prima di tornare a parlare di dichiarazione dei redditi e quindi chiedere al nostro esperto come organizzare tutte queste modulistiche, questi documenti, quali sono i consigli per capire se il nostro caso è disperato o recuperabile? Come si fa? Allora, quando il disordine diventa un fattore veramente che nuoce al nostro benessere. Certo. Allora, quello che io dico sempre è che bisogna in ogni caso valutare il livello di interferenza di questa modalità, quindi del disordine o della modalità un po' confusionale di fare le cose nella gestione della quotidianità, quindi nelle varie aree della propria vita, nella vita, sì, lavorativa, negli affetti, nella vita sociale, perché nel momento in cui rimane solo un tratto, no, della nostra personalità, ma noi riusciamo a far valere comunque la nostra vita e le nostre attività intorno a noi, questo non causa dei grossi problemi, certo, e di conseguenza non va neanche preso in considerazione più di tanto. Nel momento in cui invece interferisce, quindi causa delle problematiche, per esempio ritardi sul lavoro piuttosto che ritardi col compagno e quindi allontanamento, no, dal punto di vista affettivo di alcune relazioni, allora lì sì che bisogna prendere in mano la situazione e magari farsi aiutare a capire da dove arriva questo problema. Raccontateci la cosa che fate più fatica a tenere in ordine e quella in cui l'aspetto della vostra vita che è più disordinato. 800 24 00 24, il dottor Maffi invece terrà in ordine i nostri conti. Tra l'altro volevo farmi fare una piccola analisi seduta stante dalla nostra dottoressa, perché sto pensando come mi comporto. Io tengo l'agenda, ci segno tutto quello che devo fare, ma non è che sono una che poi la prima cosa che fa la mattina guarda l'agenda e gli appuntamenti della giornata, li tengo in testa. Ma che depravazione è questa? E tenere l'agenda, scriverci tutto per poi non guardarla quotidianamente. No, non è una depravazione, direi che è una delle strategie più comuni che adottano tutte le persone che hanno un equilibrio interno abbastanza importante, nel senso che è una strategia di tipo molto cognitivo che adottano determinate persone per ricordare a se stesse tendenzialmente che devono ricordare, quindi una sorta di metacognizione, no? Quindi, e che fa sì che la sua memoria, in questo caso la tua memoria, Deborah, si ricordi di questa traccia. Quindi è una strategia. Scrivi, ma non ne hai bisogno, perché poi automaticamente. Questo è molto rassicurante. Veramente, infatti. Aumenta l'autostima. Sì, aumenta l'autostima e anche la capacità. Si è trasformata. Esatto. Nella mia borsa si trova di tutto, come Mary quella Poppins. Di Mary Poppins. Esatto. Lo scrive Bruna, ma potrei scriverlo io. E anche la mia, lo sai. Ci facciamo fotografare anche le borse da Laura. Flessibilità cognitiva, l'ha citato la dottoressa Piccini, e il vecchio detto, ci scrive un ascoltatore, genio e sregolatezza. Ma, dottor Maffi, quando un nuovo cliente arriva nel suo studio, lei che idea si fa? A naso, capisce se è un cliente che porterà tutti i documenti precisi, rispetterà le scadenze, oppure... annusando l'aria dice questo tipino qua alla fine mi farà vedere i sorci verdi. Un po' come tanti pazienti che vanno dal medico con una diagnosi già preimpostata, sanno già loro cosa il medico dovrebbe dire. Succede, certo, anche a lei? Sì, li suddivido in tre categorie. Il disordinato, e si percepisce subito a mio modo di vedere. Chi è moderatamente ordinato, e questo è il cliente ideale, e chi vuole fare il di più quasi, e quindi si informa, prende informazioni quindi prima, allora è un po' più difficile da gestire a volte. Certo. Invece le piace il moderatamente ordinato. Esatto. Ma da cosa lo capisce? Non ho capito da cosa lo capisce. Dall'approccio. Quando entrano in studio, se parliamo di contribuenti come gli ascoltatori che presentano la dichiarazione dei redditi per quindi persone fisiche, non parliamo di imprese che è tutto un altro settore, si vede subito perché portano i documenti, si imposta un certo tipo di rapporto, oppure via email ci sono persone che scannerizzano i documenti. Già, quindi ci consento di lavorare bene. Certo. Quindi, ecco, e la delegano senza intromettersi tanto nel suo lavoro, parliamoci chiaro. I clienti migliori sono questi, che hanno, perché il nostro è un rapporto che si basa proprio sull'intuitus persone, e questo, come tutte le professioni, secondo me è fondamentale. Ah, certo. Quando si eccede in questo, significa che questo rapporto viene, come dire, messo in discussione o non nasce nel modo più naturale. Quindi, ecco, io lo percepisco comunque dai comportamenti e agli atteggiamenti anche iniziali, direi. Anche voi, insomma, un po' dovete essere guidati dall'istinto. Devono nella essere anche con un po' psicologi, sì. Vero? Le ruba, sì, un sono po' assolutamente lavoro. D'accordo. Che sono le 11.45, vedo male dal mio orologio. No. Sta per andare in onda il traffico. Eccolo! Andiamo! Cuore e denari. Difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo, se tutti mi sbagli. Adoro questa canzone. Intanto noi ci siamo tutti e quattro psicanalizzati a microfoni spenti, abbiamo parlato anche un po' dei nostri errori, perché errare è umano. Anche quando si fa la dichiarazione dei redditi, ci piace incolpare il commercialista, naturalmente, che comunque una certa responsabilità anche, sì, nel gestire questa operazione ce l'ha, ne risponde anche. E comunque, dottor Maffi, intanto poverino sta studiando tutti i casi molto dettagliati dei nostri ascoltatori che ci stanno sottoponendo, adesso riprenderemo a sentirli. Ma per chi sbaglia, intanto per chi arriva in ritardo da voi con la documentazione che dovrebbe presentare entro la fine del mese, che cosa succede oltre alla vostra tirata d'orecchie? Noi siamo un po' più flessibili, abituati a lavorare tanto, non respingiamo nessuno, ecco. Però se parliamo magari dei CAF più strutturati, c'è da dire che anche questi magari acconsentono a ricevere qualche dichiarazione oltre il termine, però se vogliamo essere ligi alle regole, il termine, come detto, del 3 di giugno, che già siamo fortunati perché è prorogato almeno di 3 giorni, visto allora, le festività. Allora, sulla consegna quindi non succede niente di particolarmente grave. Per chi però paga le tasse in ritardo, sappiamo che qualche piccola conseguenza c'è. Allora, per quanto riguarda il modello, chi presenta il modello 730, come abbiamo visto, sia i rimborsi che i pagamenti vengono fatti automaticamente, esatto, detraendoli dalla busta paga o dalla pensione, quindi non vi sono problemi di tardivi versamenti. Io cosa faccio che unico potrebbe invece, avere per quindi... l'unico. Quindi in questo caso si può fare, se la scadenza è il 16 di giugno, anzitutto con lo 0,4% a titolo di interesse si può posticipare di un mese il pagamento delle imposte. Quindi, con una piccola una sanzione, come la chiamiamo, insomma, questo è il ravvedimento, o il ravvedimento avviene in un momento successivo? Esatto, no, questo avviene nel momento del pagamento, cioè nel momento del pagamento si versa questa maggiorazione dello 0,4, che non è ancora un vero e proprio ravvedimento, una possibilità che il fisco riconosce, certo, a tutti i contribuenti per spostare il versamento a luglio. Può non esserci liquidità sufficiente a disposizione, per cui per questione appunto di buon senso il fisco ci dà questa facoltà. Poi vedi che non è solo denaro, anche un po' cuore il fisco. Sì, il fisco è... perdona in alcuni casi. Beh, perdonicchia. Perdona, molti non sembra una parola grossa. Devo dire che negli ultimi anni, però, per volere parlare bene, è difficile farlo, però se vogliamo trovare appunto degli spunti per parlare bene, ci sono le possibilità. Di i contribuenti anche non devono spaventarsi, sì, anche con la situazione contingente di crisi economica, devo dire che delle possibilità di rateizzazione, non solo delle cartelle esattoriali, ma addirittura di comunicazioni e regolarità ci sono oramai. In ogni caso, per tornare al ravvedimento operoso, se un contribuente, appunto come lei, salta anche la scadenza del 16 di luglio, può comunque ravvedersi pagando lo 0,2% di sanzione giornaliero stando nei 14 giorni, quindi si arriva ad una sanzione massima del 2,80% per un tardivo versamento, ma stando nei 14 giorni. Andando oltre, ma stando entro i 30 giorni, si paga il 3%. E viceversa, se si fa oltre i 30 giorni, ma entro l'anno di presentazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione l'anno successivo, si paga il 3,75% di sanzioni. Ovviamente le sanzioni devono essere maggiorate agli interessi, che è l'1%, quindi vedete che c'è possibilità di ravvedersi, come dice il termine, certo, stesso. Vi siete mai ravveduti? 800 24 00 24, avete dovuto ravvedervi perché eravate disordinati? Perché aprendo l'agenda di Deborah e quindi facendo queste chiacchiere su come cerchiamo di dare un ordine alla nostra quotidianità, gli ascoltatori si sono scatenati e hanno iniziato a scriverci messaggi al 349 238 6666. Ciascuno ci racconta dove è ordinato e dove è disordinato. Se volete continuare a farlo, potete anche chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, come ha fatto Marco da Torino. Buongiorno. Marco? Sì. Eccoci a lei. Ecco. Allora? Io lo confesso, sono un po' un maniaco dell'ordine in ufficio. Sì. Perché, come dire, essendo un po' caotico di natura, cerco di impormi delle regole un po' ferree, però inevitabilmente poi qualcosa scappa. Come vi ho scritto, scappa certo. Dal controllo. E allora, che cosa perde più frequentemente? Non mi ricordo mai dove lascio le chiavi. Purtroppo viaggio con una serie di mazzi, e allora sai che se li dissemina ovunque, dimentico qualcosa. Marco, non si perde i documenti per la dichiarazione dei redditi, perché lì, e poi mi raccomando, puntualità, perché tra le righe l'abbiamo capito anche dal nostro esperto, il dottor Maffi, che è stato molto rotondo, rassicurante, però alla fine le cose bisogna farle per bene. E Marco, volevo ricordare a Marco che secondo le statistiche noi perdiamo, pensate, 15 minuti al giorno a cercare cose che abbiamo perso, e proprio in cima alle cose che perdiamo più di frequente ci sono le chiavi e poi i documenti. Quindi Marco, siamo, e parlo al plurale, in ottima compagnia. Andiamo. C'è anche Carlo, magari questo messaggio possiamo farlo commentare la nostra dottoressa Piccini. Chi è disordinato, sostiene lui, da sempre a colpa gli altri se manca qualcosa, è vero? Sì, purtroppo è vero, nel senso che in termini clinici, ve la metto lì così, si chiama locus of control esterno, nel senso quando sbagliamo noi o quando c'è qualcosa che non va, la responsabilità è degli altri. Questo ci permette, come dire, di non sentirci particolarmente in colpa e quindi di superare il momento di stress. Ma quando è invece la responsabilità del commercialista che si fa carico dei suoi errori? In quali casi il commercialista paga una sanzione al posto del suo cliente? Tra l'altro voi avete anche l'assicurazione su questa responsabilità. Non piangiamo per loro, siamo abbastanza tranquilli. Sì, nel caso di errore professionale, quindi nel caso in cui il CAF, il professionista, abbia sbagliato ad imputare un reddito, a considerare una detrazione, ovviamente ho responsabilità quantomeno per le sanzioni, cioè poi l'imposta, è chiaro che la maggiore imposta versata si doveva versare allora e si verserà, però per le sanzioni noi professionisti, quindi iscritti all'albo, e ci tengo a precisarlo, siamo oramai da anni per deontologia professionale è tenuti ad avere un'assicurazione professionale, quindi il contribuente che viene da noi può stare tranquillo e sereno che gli errori professionali si pagano. Certo, è tutelato. Senta, le devo leggere questo messaggio perché è tutto per lei. Io sono inquadrata, dice questa ascoltatrice. E non me la bruciare così. La ragioneria fatta non ha influito. Mia mamma va nel panico tutti gli anni per il 7.30, che tra l'altro gli ho sempre impostato io, perdendosi le scartoffie con angoscia. Un saluto al dottor Maffi, Cristina Ledicolante. E qua non vogliamo sapere niente? Ma a me piacerebbe invece, ma adesso tanto il tempo del GR, adesso me lo cucino bene. Allora, poi andiamo ai nostri ascoltatori, ma nella seconda parte del programma, tra poco. Cuore e denari. Come fai a far tutto? Ma come fai a far tutto? Ma come fa a far tutto? I ricercatori non sono riusciti a spiegarne il motivo. Potevano chiedere a me. Ehi, taxi! Invece di dormire, faccio la lista. Primo, portare Amelia a scuola. Secondo, cercare di non farsi mettere sotto al lavoro. Non sei un po' in ritardo stamattina? I bambini, i dolci per l'asilo, le luci di Natale, le feste di compleanno. E poi Parma, noi dobbiamo, oggi nella nostra lista, nell'agenda di Deborah, abbiamo scritto ore 17.45, treno per Parma. Perché si va a Cibus, noi domani saremo lì e avremo adesso tre... ci aspettiamo il comitato accoglienza in stazione centrale di tutti i nostri fans che ci vengano a salutare. Avremo già con noi domani il dottor Gualerzi, il dottor Ongaro, che sono già lì. E noi vogliamo anche invitare i nostri ascoltatori che saranno domani a Cibus a venirci a trovare al nostro stand, al nostro studio, naturalmente per abbracciarci, farci complimenti e raccontarci un po' di loro, ma soprattutto le vostre diete. Che cosa dovete portare? Parleremo della nostra ricetta del benessere. Gli ingredienti sono sempre tre: l'attività fisica, l'alimentazione e mettiamo mente, intesa per la meditazione, attività come lo yoga, la respirazione. Allora, questi sono i tre ingredienti. Voi scriveteci la vostra ricetta e poi noi pescheremo, faremo pescare dai nostri esperti tra i vostri bigliettini. Quelli che saranno letti riceveranno lì, però a Cibus, una copia omaggio del libro dei nostri ospiti. Quindi iniziate a scrivere, soprattutto se venite a Cibus, preparatevi. Perfetto. Con i vostri foglietti. Sì. Tante liste, tante cose da fare, ma... e tanti ascoltatori che sono pronti anche a condividere. Bravo. Con noi non solo la loro dichiarazione dei redditi, ma anche la loro, come dire, il loro atteggiamento nei confronti dell'ordine e disordine. Divertentissimo il messaggio di Rosa, che scrive: per espiare le colpe in purgatorio mi metteranno sicuramente a fare la contabilità perché la legge del contrappasso è impietosa. E poi chi abbiamo ancora? Abbiamo Cri: finta ordinata e precisina, vedi, è finta però è sincera. Non riesco mai ad avere un ordine completo. A volte penso di essere io a non volerlo, per timore, perché ha sentito che i disordinati sono creativi. Dottoressa Piccinni, ma bisognerebbe vedere se l'ascoltatrice che ci scrive ha un'aspettativa eccessivamente realistica nei propri stessi confronti, quindi lei dice: non riesco mai a essere ordinata fino in fondo, ma invece probabilmente il suo livello di ordine è già abbastanza buono. Quindi è sempre una questione di punto di vista. Allora, c'è la povera Luisa da Milano che attende, credo, dalle 11:15. Gliel'abbiamo fatta, poi la nostra barriera rosa si arrabbia, tu lo sai, anzi Luisa, la salutiamo. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei oggi riceverà il premio, come possiamo dire, fedeltà. Brava, lui è il premio pazienza. Anche il premio pazienza e fedeltà, e partirà subito per lei velocemente un libro della libreria di Cuore Denari. Grazie infinite. Le vuole della libreria di Cuore o di quella di Denari? Quella di denari. Quindi... grazie. Okay, guarda, adesso Luisa, rubo qualche libro di quelli che si è portato il dottor Maffi questa mattina, e quindi sulla dichiarazione dei redditi non ci saranno segreti. Grazie. Allora, ci dica Luisa. Tra l'altro proprio oggi o domani dovrei andare al CAF, quindi per me la trasmissione è arrivata a fagiolo. Dunque, la mia domanda è questa. Allora, complimenti per la trasmissione. Grazie. La mia domanda è questa. Dunque, negli anni la mia dichiarazione è abbastanza semplice. Io sono proprietaria di una prima casa, abitazione principale. Dunque, non si è pagato l'IMU. No. Nelle dichiarazioni precedenti bisognava allegare la fotocopia dei versamenti. Io ho telefonato al CAF perché appunto mi è venuto questo dubbio e mi hanno detto che devo allegare le fotocopie della mini IMU che si è pagata a quest'anno gennaio, infatti. Ok. L'altro dubbio che avevo era questo: avevamo fatto una ristrutturazione nel 2011, non mi ricordo. Qualche anno fa, due o tre anni fa. Già stiamo rateizzando. Sì. Però mi hanno detto che quest'anno è il secondo anno. Quindi non devo ripresentare le fotocopie. Esatto. Glielo confermo, Luisa, perché io sono nella sua stessa situazione. Okay. Ho ristrutturato due anni fa, vale una prima presentazione al commercialista, no? Dottor Maffi, poi vanno in automatico queste restituzioni del fisco. Non tutti gli anni vi dobbiamo dimostrare che tre anni fa abbiamo fatto la ristrutturazione, vale la prima volta. Esattamente, anche se il magari un CAF più zelante, un professionista più zelante potrebbe comunque chiedere il faldone della chiave. Comunque sempre bene conservare, non costa nulla portarlo anche alle successive dichiarazioni. Benissimo. È sempre meglio controllare sul prima. Tema invece della mini IMU che abbiamo versato, anche in questo caso mi identifico con Luisa perché anche a me è toccato, come molti delle persone che sono qui in studio questa mattina. Eccola qua anche la dottoressa Piccinni. Nicoletta non confessa nulla. Io rimango così. così nel silenzio per essere un po' misteriosa, certo. Perché ho già fatto vedere la mia scrivania, per ecco oggi qua. Basta. Allora, questa dichiarazione va allegata quest'anno alla dichiarazione dei redditi, chiede Luisa? Allora, la cosiddetta certificazione del pagamento. Ecco. Esatto, bisogna chiarire che nel modello della dichiarazione dei redditi va indicata l'IMU o la mini IMU dovuta, quindi non quella pagata. Quindi a prescindere dal pagamento va indicata l'IMU dovuta o minimo dovuta, quindi bisogna prendere i calcoli fatti e indicare l'IMU che doveva essere versata, poi a prescindere. Insomma, lei per non saperne leggere né scrivere, come si dice, vada con questa certificazione al CAF che saprà appunto di conseguenza dove indicare la mini IMU dovuta. Vedi, non ho risposto perché glielo ho suggerito, già sapevo. Sì, Carlo, buongiorno da Trento. Buongiorno Carlo. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Vada Carlo, che ci vuole raccontare? Ha preparato tutto? Ma certo che ho preparato tutto, ordinato come sono. Ah, e quindi? Quindi le ho detto, io l'unico posto dove ho ordine è il portafoglio. Bravo. Bravo, mette tutte le monete, tutti i biglietti. Quelli da 5, no, quelli da 10. No, le metto in un altro taccuino per le monete apposta, perché il portafoglio si rovina. Vedi, quindi oltre ordinato molto scrupoloso. La dichiarazione dei redditi, Carlo, la fa da solo o si affida a un CAF o al commercialista? Le ACLI. Che abbiamo tra l'altro avuto anche come trasmissione. Ospiti. Grazie Carlo. Dottoressa Piccinni, la dichiarazione dei redditi, banco di prova, c'è chi fa da sé e chi si affida. Sì. E anche questo, no? Magari lo fa per insicurezza o per pigrizia, questo poi è da vedere, ma lo stesso atteggiamento si ritrova in tanti ambiti della nostra vita. Io, Deborah, pensaci anche tu. Sì. Quali sono le cose che tu hai l'abitudine di delegare? E la dichiarazione dei redditi in primo luogo, ma non ci penso per niente di metterci mano. E sarebbe anche interessante cercare di capire quali sono invece le cose su cui vogliamo avere un super controllo perché non è che tutto deleghiamo e non possiamo neanche controllare tutto, il che ci mette un po' di ansia. Esatto, allora hai usato il termine sicuramente giusto, direi ipercontrollo. Ci sono moltissime persone che a causa di questo ipercontrollo addirittura si prendono delle responsabilità, direi anche abbastanza importanti, proprio perché non riescono a delegare assolutamente alcuni compiti ad altri, in particolar modo a specialisti, ma hanno bisogno di sapere di aver fatto le cose in un determinato modo, autonomamente. Questo però naturalmente induce un livello di tensione molto elevato, perché la paura di sbagliare è sempre in agguato, certo. E questa paura di sbagliare crea stress e ansia, poi alla fine si sbaglia realmente a volte. Ecco, è proprio vero, quando tu vuoi fare una cosa e dici devo farla bene, non posso sbagliare, devo fare bella figura, patapam. Non è che quella sarà la legge dell'attrazione, che tutto il negativo a cui pensiamo ce lo tiriamo addosso, dottoressa Piccinni, forse faccio un po' una lettura spirituale della dichiarazione. Va bene, però tradotto tutto sommato ha proprio a che fare con il livello di ansia che si accumula e che quindi poi non ci permette di fare una performance adeguata. Lucida. Allora ci dicono che è sparita la trasmissione, ma la in trasmissione dove invece è andata? Un messaggio non formato, ma noi siamo qui. Leggo un messaggio perché il messaggio di Franco, pensionato da Vicenza, ci dà l'opportunità di parlare di una delle novità che con la dichiarazione dei redditi abbiamo a che fare quest'anno. Dottor Maffi, glielo leggo. A seguito di una ristrutturazione edilizia effettuata l'anno scorso, in genere una ristrutturazione è un impegno economico piuttosto importante, ho chiesto un rimborso IRPEF di circa 8.000 euro. Il CAF a cui mi sono rivolto mi ha detto che i rimborsi superiori a 4.000 euro non verranno accreditati nella pensione di agosto, ma dopo un controllo dell'Agenzia delle Entrate da effettuarsi entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione IRPEF. Chiedo se questo è vero perché, dice Franco, tutto ciò mi genera un po' di stress. Purtroppo è così. Purtroppo per lui, però insomma non sono soldi che andranno persi. Rispondiamo a Franco tranquillizzandolo anzitutto. Per quanto riguarda il rimborso dei 4.000 euro, che diventerebbe meno facile poiché dovrebbe essere vagliato dall'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe provvedere nei 6 mesi dalla presentazione telematica del modello 730, quindi entro il 31 di dicembre, ad effettuare dei controlli, e quindi dovrebbe provvedere poi l'Agenzia delle Entrate eventualmente a rimborsare, quindi non a luglio ma quantomeno a dicembre o gennaio o febbraio. Addirittura può andare a finire anche l'anno prossimo. Bisognerà vedere quanto l'Agenzia delle Entrate sarà ligia e rispettosa dei termini. Questa modalità di controllo dei crediti però riguarda solamente due fattispecie: crediti che emergono da eccedenze di imposte relative agli anni precedenti, quindi io ho un'eccedenza IRPEF che mi riporto dal 2012, che quindi si è generata gli anni precedenti, oppure nel caso in cui il credito rimborsabile derivi da carichi di famiglia. Quindi tutti i crediti che derivano da altre detrazioni di imposta, e quindi nella fattispecie dalla ristrutturazione edilizia, non sono assoggettate a questo vincolo a parte dell'Agenzia di Entrata. Allora il CAF non gli ha dato esattamente l'informazione giusta? Il CAF ha dato un'informazione falsa. Addirittura. E quindi adesso qua speriamo di non farlo litigare con il CAF. Magari vada a confrontarsi Franco con un altro centro di assistenza fiscale, esatto, per sicurezza. Con un altro CAF, che dati i soldi che ci sono in ballo, direi che vale la pena fare un piccolo investimento in un altro consulente. Anche perché, visto come appunto titolava la vostra testata, c'è stato un boom di circa 28 miliardi dalla ristrutturazione edilizia, un più 54% a gennaio-febbraio, questi vincoli affosserebbero in partenza la normativa che invece è tesa ad agevolare a far ripartire il mercato. Bravissimo, cita anche il Sole 24 Ore, la dottoressa Piccini la sta esaminando, vedo che lei ha un punteggio molto alto. Siamo un tantino sotto i riflettori stamattina. Voglio dirvi che Serena ci ha scritto che per lei il 7:30 è un appuntamento positivo, questo le farà piacere, dottor Maffi, perché si traduce il rimborso IRPEF, appunto, un aiuto per le molte spese sostenute. Esatto. Quindi ci ha scritto questo tweet che leggiamo volentieri. Maria Paola, buongiorno da Milano. No, io sono una signora disordinatissima. Brava. Però il mio disordine è artistico. Certo. Vi descrivo in questo momento dove mi trovo. Sì. Una sedia piena di giornali che domani dovrò portarli giù. Un tavolino con due pile di libri che è quasi al soffitto, che se li tocco arriva giù tutto. Io improvviso sempre in casa, perciò quando uno cerca una cosa io l'ho spostata in un altro posto. Ho sempre odiato l'ordine, facevo la situazione generale di una banca, avevo un ragioniere capo che quando vedeva la mia scrivania sveniva, però entrava, mi chiedeva, c'era tutto a portata di mano. Ecco, io vado in una casa e questo è un mio limite, se entro che è tutto in ordine queste persone possono essere squisite, ma non le sento neanche cosa dicono. Sai il mobilificio di Cantù? Tutto in ordine, perfetto, non c'è una rivista, niente. Io sono seduta su un divano che da sotto vengono fuori due riviste, perché stanotte non dormivo, io vengo qui e leggo, non ho problemi. Insomma, però il messaggio però sono artistiche, vedi, a casa mia c'è dell'arte, appena entrato montagne di libri, ho un figlio che fa lo sceneggiatore. Allora. Maria Paola però ci ha detto una cosa: quando entra in una casa troppo ordinata qualcosa la insospettisce, insomma si crea una distanza. Devo dire che proprio l'ordine è un po'... Dottoressa Piccini non piace neanche a lei, lo dica. Si no, sbilanci. Diciamo che no, non mi piace per niente a livello personale, non sono una persona proprio precisa, eccessivamente meticolosa, però devo dire un aspetto un filino più critico, solo una parola, effettivamente l'eccessivo ordine, quindi l'eccessivo bisogno di tenere tutto sotto controllo e tutto in un ordine particolare, effettivamente non è buono dal punto di vista psicologico, perché riprende quel concetto di rigidità eccessiva che poi ci può essere anche dannoso nella vita di tutti i giorni, perché tradisce un po' il desiderio di tenere tutto sotto controllo, e quindi è un modo anche di tenere sotto controllo paura, ansia, lo stress, e quindi abbiamo individuato un po' un lato debole dei perfettini. A proposito di perfettini, c'è chi sta intanto sollevando la polemica, ma magari ce la rinviamo ad un'altra puntata perché questa mattina non facciamo più in tempo, sulla questione dei 4.000 euro, dottor Maffi, e tutto il superiore che poi va rimborsato appunto dall'Agenzia delle Entrate successivamente ad una serie di controlli. Detto questo, volevo leggerle, siccome la novità di quest'anno riguarda anche i rimborsi per le famiglie numerose, c'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che ci racconta che ha presentato con mio marito, quindi l'ascoltatrice, un 7:30 ad un CAF. Siamo una famiglia numerosa, 4 figli, io disoccupata dallo scorso ottobre, dall'ottobre 2013. Ci hanno detto che non possiamo recuperare niente, né per il mutuo né per i lavori straordinari eseguiti dal condominio. Aiutateci a capire perché in busta paga non ho ancora visto questa diminuzione di tasse. Beh, intanto la dovrebbe vedere se avesse appunto queste, queste restituzioni a luglio. Esatto, ecco. Prima la dichiarazione va liquidata, eventualmente nel caso di dichiarazione presentata congiuntamente si può recuperare, magari si possono recuperare delle detrazioni sul reddito del marito, però diciamo che se i calcoli sono stati fatti in maniera corretta non è detto che a tutte le spese sostenute, quindi a tutte le detrazioni, poi consegue un risparmio di imposta, perché ricordiamo che la detrazione è una detrazione dall'imposta. Nel caso di imposta insufficiente o assente, la detrazione vale solo non è per quella parte. Senta, invece per quello che riguarda l'aumento dello sconto per i figli a carico? Per quanto riguarda l'aumento dello sconto per i figli a carico, ecco, qui c'è una notizia sicuramente positiva, perché per quanto riguarda l'anno 2013 sono state aumentate le detrazioni. Qui dividiamo tra i figli superiori, quindi dai 3 anni in su, la detrazione è passata da 800 euro a 950 euro. Per quanto riguarda ogni figlio, sempre sotto i 3 anni, a detrazione da 900 euro passata a 1220 euro, e poi per quelle particolari situazioni in cui figli con disabilità, la detrazione aggiuntiva è passata da 220 euro a 400 euro. Perfetto. Allora, noi dobbiamo salutarci, sì. Che dobbiamo dire? Buona dichiarazione dei redditi? Va bene, d'altronde dobbiamo. Si fa anche con un sorriso, e con i consigli della dottoressa Piccini terremo sotto controllo l'ordine, il disordine, l'ansia. Grazie alla dottoressa Piccini. Grazie a voi. Grazie al dottor Maffi per il suo aiuto di questa mattina. E a Camilla che oggi compie 25 anni. Mamma mia, brava Camilla. Un quarto di secolo. Ci sentiamo domani da Parma, buona giornata a tutti. E denari.